vamos hacia la victoria. El sistema paranoia. El sistema hacia la gloria va. Nuestra historia. La sangre se paga con sangre, no te olvides nunca. Te de mirar con lupa cuando todo tu rango escupa. Mejor te preocupa, pondría el fusil en tu boca. E allora torniamo in voce. Come preannunciato, abbiamo al telefono un compagno con cui, uno dei redattori tra l'altro del blog Urria, da cui spesso insomma traiamo diverse informazioni. Ti do di nuovo il benvenuto a Silenzio Assordante. Un saluto a tutte e a tutti. Ciao, ciao, grazie a te per la partecipazione. E niente, con te, come preannunciato prima nel breve sommario, volevamo fare una, insomma, una ricognizione un po' su sui CARA. Perché? Perché come sappiamo tutti e tutte, c'è stato il 22 gennaio iniziata questa operazione a Castelnuovo di Porto, quindi si è tornato a parlare moltissimo di questo tema. Purtroppo spesso sia noi compagni e compagne, ma direi soprattutto i media, abbiamo la memoria corta, quindi è il caso di rinfrescarci un po' la mente su che cosa sono questi centri e da dove vengono e a che cosa servono, come hanno funzionato nel tempo, visto che poi insomma adesso in seguito a questa operazione sono state tante le sono tantissime le strumentalizzazioni dal mio punto di vista che si fanno in seguito a questi eventi. Basti pensare che esponenti del PD hanno parlato di deportazioni naziste, una delle strutture più importanti per l'accoglienza è stata sgomberata senza preavviso, insomma tutti a stracciarsi le vesti per questo fatto, per questo evento. E invece insomma noi ci tenevamo un po' a rimettere un po' il punto, rifare un po' il punto della situazione sui CARA, quindi ti cedo la parola, così magari se facciamo insieme, rinquadriamo un attimino questi centri, da dove vengono, a che cosa sono serviti nel tempo. Sì, allora innanzitutto anche rispetto ai termini che sono stati usati rispetto a quanto accaduto a Castelnuovo di Porto, si è parlato di sgombero, quando in realtà in questo caso si è trattato di una chiusura, questo perché il contratto di gestione che era affidato alla famigerata cooperativa Auxilium, di cui magari parleremo dopo, a partire dal 2014 e doveva avere una durata di 3 anni, quindi era finito nel 2017, aveva avuto dei taciti rinnovi per 2 anni, è stato che in questo caso appunto non è stato fatto un nuovo bando, anzi è stato bloccato alla fine dello scorso anno, è stato sospeso temporaneamente il bando per la gestione di questo CARA e quindi al 31 dicembre finisce il contratto con l'Auxilium e cessa quindi di funzionare come centro di accoglienza per richiedenti asilo, o come viene definito con l'acronimo CARA. Quindi non si tratta di uno sgombro, ma di una chiusura che appunto non ha a che fare con l'approvazione a novembre della legge di sicurezza da parte del Parlamento, ma ha a che fare di più con la consueta gestione delle persone migranti come avviene da anni in Italia. Ricordiamo innanzitutto che questi CARA, che qualcuno adesso ha definito tipo questo di Castelnuovo come un luogo dove si svolgeva una buona integrazione, un centro di accoglienza modello, in realtà le strutture che adesso conosciamo come CARA sono nate come luoghi detentivi, sono infatti nati nel 2002 e venivano definiti all'epoca centri di identificazione CDI, quindi avevano un centro dove le persone venivano recluse, solo successivamente venivano recluse nel frattempo che si trattava la loro domanda di asilo. Successivamente nel 2008 questi centri sono diventati invece, sono stati ridefiniti con un'altra terminologia e sono diventati centri formalmente aperti e definiti con appunto l'acronimo Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo, dove le persone migranti potevano in teoria, secondo legge, rimanere un massimo di 35 giorni fino diciamo, all'identificazione e la possibilità di presentare la domanda d'asilo e poi devono essere in qualche modo smistati nella seconda accoglienza. Quello che è successo in realtà è che questi centri, che sono 13 in tutta Italia, da quello di Castelnuovo di Porto appunto al Cara di Brindisi, il famigerato Cara di Mineo in Sicilia, il Cara di Bari, il Cara di Borgo Mezzanone vicino Foggia, quello di Crotone, altri ancora, tutti costruiti in megastrutture, quindi dove c'è l'assembramento e la segregazione di migliaia di persone in luoghi isolati, difficilmente raggiungibili, come appunto quello di Castelnuovo di Porto. In questi centri appunto le persone sono rimaste per anni e anni, quindi non è stata un'accoglienza temporanea, se così si può definire, ma sono diventati dei luoghi di vita per anni per le persone in attesa appunto della possibilità di ricevere una risposta alle domande di asilo. Ecco, ti interrompo un secondo, perché hai già detto tantissime cose, mi sembra già inquadrato benissimo quello di cui un po' volevamo parlare. Innanzitutto la prima cosa che hai detto, la notizia dello sgombero, questa è una cosa che va insomma rimarcata, cioè è scaduto il contratto all'Auxilium, quindi si tratta di un'altra cosa, fa abbastanza specie che questa notizia passa un po' in sordina, no, rispetto a poi quello che è successo poi realmente in questo centro. E poi soprattutto ti chiederei un attimino di cercare di inquadrare meglio il problema del fatto che appunto questi centri nascono come centri in cui le persone devono rimanere pochissimo tempo, poco più di un mese, e poi diventano invece praticamente una sorta di raccoglitori grandissimi di persone, posizionate anche in luoghi strategici che hai appena citato. Mi viene in mente soprattutto quello di Borgo Mezzanone, da quale abbiamo fatto tantissime corrispondenze, che praticamente è un allungamento della Tendopoli che c'è a fianco, proprio lì a Borgo Mezzanone, dove c'è una quantità, migliaia e migliaia di persone che lavorano soprattutto col pomodoro lì da quelle parti, fanno i raccoglitori di pomodori. Quindi questo tanto per... Vai. Proprio per l'isolamento, alcuni di questi centri veramente hanno ammassato migliaia di persone. Ricordiamo per esempio quello di Mineo, che aveva formalmente una capienza di 1800 persone, 1800 posti, e è arrivato a contenere più di 4000 persone, così come tutti gli altri centri hanno ben sovraffollato rispetto alla capienza formale. Quindi nei momenti di maggior flusso di arrivo di migranti, le persone venivano sbattute e lasciate poi lì per anni, anche al di là delle possibilità formali di capienza. La stessa cosa è avvenuta a Castelnuovo, dove nelle stanze che erano previste per 4 persone, in realtà ci dormivano 7-8 persone. Tra l'altro una cosa da sottolineare, per esempio, di alcuni di questi posti, in particolare appunto Castelnuovo, è che la struttura dove ha sede il CARA in realtà è un ex sede della protezione civile. Cosa incredibile è che questa sede della protezione civile, cioè un luogo dove in caso di emergenze dovrebbe andare le persone in caso di una terremoto eccetera eccetera, sia stata costruita in un luogo adiacente, proprio a pochi metri dal fiume Tevere, ed è un luogo a rischio esondazione, cosa che è già avvenuta. Ricordiamo l'episodio dell'inondazione del 2014, che vide allagato pure l'intero CARA di Castelnuovo, e che costrinse le persone migranti lasciate sole, abbandonate da tutti gli operatori e i gestori, che scapparono senza fornire nessuna informazione e aiuto a queste persone, migranti che sono state 2 giorni isolate, senza acqua, senza luce, senza cibo, tra l'altro circondate da un cordone di polizia che evitava l'allontanamento o la fuga di queste persone. Questo mostra appunto che tipo di luoghi di segregazione sia stato sia il CARA di Castelnuovo, così come gli altri, che fungono poi tra l'altro anche bacino di manodopera sfruttabile a nero da parte delle aziende dei dintorni, Questo è tanto più vero nel caso di Mineo, nel caso di, del Cara di Borgo Mezzanone, quello di Brindisi o di Bari, e appunto tolgono le castagne da fuoco, per esempio, agli imprenditori agricoli, che quindi non ci pensano nemmeno a dover fornire un alloggio, così come è previsto dalla legge, a chi lavora per loro. E intanto, anzi, con la scusa del fatto che queste persone sfruttate hanno un tetto e gli viene fornito il cibo, abbassano ancora di più quei miseri salari già che non rispettano il minimo dei contratti sindacali. Certo, e questo tanto per fare un po' chiarezza anche su qual è la vera, reale e concreta funzione anche di questi luoghi, che vengono insomma spacciati per il fiore all'occhiello di un'accoglienza di un certo tipo, e invece insomma bisogna dire con esattezza a che cosa servono realmente. Sì, tanto più che abbiamo una dimostrazione palese della funzione di questi luoghi dal fatto che sono stati gestiti in Italia in questi ultimi anni da tutte le grandi cooperative o multinazionali o aziende che sono connesse con la gestione dei centri di identificazione e espulsione, quelli che prima venivano chiamati appunto CIE, ora si chiamano, sono stati rinominati CPR. Esatto, e questi qua sono infatti l'Auxilium, le Misericordie, Jeps, Acquavinto, Connecting People, sono le stesse cooperative che indifferentemente possono gestire i CARA, possono gestire i CIE, gestiscono un po' tutte le fasi, dall'accoglienza alla selezione delle persone fino alla detenzione e all'espulsione delle persone, ma tutte le fasi di questo sistema integrato che appunto si accompagna la cosiddetta accoglienza, poi ha un percorso per cui la maggior parte delle persone ricevono e diniegano la domanda d'asilo e quindi diventano irregolari, sono a rischio di espulsione e possono ritrovarsi appunto in un CPR per essere deportate. Esattamente. Dico, proprio la macchina poi dell'espulsione funziona esattamente in questo modo, parte proprio dall'accoglienza per poi arrivare all'espulsione, e i soggetti che ci lavorano, soprattutto queste, insomma, queste grandi cooperative o aziende che ci lavorano, sono poi sempre le stesse, Auxilium come nel caso del Cara di cui stiamo parlando, insomma ne abbiamo parlato spesso qui in trasmissione, ne parliamo spesso dai microfoni di questa radio, poi sono sempre gli stessi soggetti. Ti volevo chiedere, tu prima cercavi un po', hai abbozzato un po' il ragionamento, scollegavi in qualche modo il decreto, il DL Salvini sull'immigrazione da questo avvenimento, spiegaci un po' meglio questa cosa, perché secondo me è abbastanza importante per capire anche poi la dinamica di quello che è successo realmente. Sì, allora, secondo quanto previsto da questa nuova legge di sicurezza, ci sta innanzitutto una riduzione alle persone che avranno la possibilità di ottenere un riconoscimento della loro domanda di protezione, in quanto è stata nei fatti abolito la protezione umanitaria, che era quella più riconosciuta in percentuale rispetto alla misura dello status di rifugiato oppure della protezione sussidiaria. E infatti gli ultimi dati ufficiali sulle domande d'asilo esaminate nel dicembre 2018 dicono che il ben 82% di queste domande è stata respinta, quindi si avranno sicuramente meno bisogno di, cioè ci saranno meno persone da dover accogliere tra virgolette, e questo in connessione al fatto che anche gli sbarchi sono diminuiti, in particolare quelli della Libia intorno all'80-90%, lo chiamano anche all'inizio di quest'anno, sono solo 155 le persone che sono riuscite ad arrivare in Italia, sono di più quelle morte in mare solo in questo primo mese di gennaio, e quindi si assisterà a una rimodulazione di tutto il sistema di accoglienza, puntando soprattutto sui CAS, i centri di accoglienza straordinaria. In questo Salvini segue un po' però, e lo dobbiamo dire, quello che è stata la linea seguita anche da Minniti negli ultimi anni. Infatti l'altro giorno, proprio ieri o l'altro ieri, Minniti ha ribadito la volontà di chiudere, non solo di continuare a chiudere i grandi centri, come è stato chiuso quello là di Cona, di Bagnoli nel Veneto. L'intenzione è quella di portare a chiusura, quindi non rinnovando le convenzioni e i bandi, anche gli altri grandi gara, quello di Borgo Mezzanoni, di Crotone, di Mineo, e anche Minniti sostiene che Salvini ritiene che sia più che la popolazione migrante dei richiedenti d'asilo sia più gestibile e controllabile, usando questo termine, nell'accoglienza diffusa in piccole, diciamo, in piccole strutture diffuse sul territorio, ecco. Che è quello che già dal 2017 è la stessa cosa identica che diceva Minniti, e quindi parlava di chiudere i grandi centri, di chiudere i CARA, di puntare sull'accoglienza diffusa, e purtroppo era quello che diceva anche, diciamo, la maggior parte della sinistra, diciamo, democratica umanitaria, esattamente, unitaria, riguardo alla tipologia di gestione, cioè si dà per scontato che le persone dovessero essere gestite in un circuito dell'accoglienza, cambiava solamente la modalità. Esatto, quindi diciamo un percorso abbastanza lineare che poi appunto vede, come giustamente ci ricordi tu, vari soggetti coinvolti che più o meno, nonostante poi le differenze che ci dovrebbero in teoria stare, però più o meno parlavano tutti della stessa cosa, ovvero che il problema dell'accoglienza era accogliere le persone in questi grandi centri sparsi un po' per l'Italia, ma invece diffondere in maniera estrema l'accoglienza, quindi insomma, no, ci ricordiamo tutto il discorso sulla microaccoglienza, hai fatto benissimo a ricordarlo, portato avanti anche da purtroppo parte della sinistra così umanitaria e illuminata, che appunto dicevano sì, con la microaccoglienza probabilmente molti di questi problemi che affrontano le persone potrebbero essere risolti, dando appunto per scontato che persone che arrivano, che intraprendono un viaggio e arrivano in un paese altro da quello da cui partono, poi vogliono essere gestite, controllate, accolte, diciamo, in questo senso. Quindi è bene ricordarlo, perché la linea è identica, cioè tutti più o meno puntavano a questo discorso qui. Sì, poi per tornare al discorso appunto dell'indignazione che si è creata intorno a questi trasferimenti, sicuramente le persone che hanno subito senza essere consultate, senza aver potuto decidere appunto se rimanere, se mantenere i legami lavorativi, affettivi, amicali, relazionali in quel territorio dove stavano da anni, per quanto fosse veramente un pessimo luogo quello di Castelnuovo di Porto, e quindi con tutta la illegittimità delle proteste, della rabbia di chi è stato costretto poi a trasferirsi o sarà costretto a trasferirsi, dobbiamo ricordare che però questo è la norma da sempre in tutto il sistema di accoglienza. Le persone non sanno mai dove verranno smistate dal momento in cui sbarcano, passano in un hotspot. Più volte vengono trasferite, più volte nel corso dell'attesa della domanda d'asilo in vari centri, passano appunto da un hub a un CARA, poi passano a un centro di accoglienza straordinaria, poi alcuni arrivano in uno SPRAR, pure anche all'interno di uno SPRAR può essere trasferito, e questo sempre senza che possano mai minimamente poter dire la loro su come vogliono vivere e dove vogliono vivere. Quindi se è giusto definire questi trasferimenti delle vere e proprie deportazioni, cioè quindi fatte contro la volontà delle persone, dobbiamo dire che tutto il sistema d'accoglienza da sempre, in ogni sua parte, che è basato appunto sul fatto che sono le istituzioni, la prefettura e le istituzioni locali, che decidono della vita delle persone, e queste persone non hanno nessuna possibilità di opporsi a queste decisioni. Tanto è vero che sia a Castelnuovo già nel 2014, ma anche in tantissimi altri centri che siano CAS o STRAR, quindi anche nella buona accoglienza, nella piccola accoglienza, nell'accoglienza diffusa, come si dice, le persone spesso hanno protestato contro dei trasferimenti coatti, delle deportazioni, e sono, nel silenzio generale, sono state represse con denunce, arresti, sono state cacciate dall'accoglienza, hanno avuto, a causa appunto di queste denunce, di questi arresti, di queste condanne, anche visto respingersi la domanda d'asilo. Quindi chi ha sbottato realmente, diciamo, per una libertà di movimento anche all'interno del paese in cui sono costretti, come l'Italia, in questi anni non è stata quasi mai sostenuta dalle forze, diciamo, cosiddette antifasciste, e in questo momento invece è incredibile che ci sia cosa adesso che invece succedono queste cose solo da quando è arrivato Salvini come ministro dell'interno. Esattamente, esattamente. E infatti, ecco, importante ricordare anche questo, che operazioni del genere purtroppo, e lo sottolineo purtroppo, fanno parte dell'ordinario, non dello straordinario, perché come giustamente ci ricordavi tu, il periplo poi di una persona che entra nel circuito dell'accoglienza, questo tipo di cose qui avvengono quotidianamente, quindi bisogna fare molta attenzione poi, no, anche a valutare gli eventi e i fatti. Ovviamente con questo non vogliamo sminuire quello che è successo, perché poi sembra che uno dice vabbè, tanto è tutto uguale, invece non è assolutamente così. Non vogliamo affatto sminuire quello che è successo qualche giorno fa a Castelnuovo di Porto, però è importante mettere, diciamo, dare il giusto peso alle cose e metterle anche al loro giusto posto, più che altro per poi fare delle riflessioni e capire un po' meglio e nel concreto quello che accade realmente. E infatti su questo ti stimolerei un po' su questo, perché i CARA poi nel tempo sono stati, direi, se non vado errato, praticamente quasi tutti teatro di rivolte, proteste anche molto forti, che hanno portato a quello che dicevi tu, anche a, insomma, a denunce varie rispetto alle persone che, insomma, hanno alzato la testa, che si sono viste negare qualsiasi tipo di, diciamo, di possibilità di accedere poi di vincere la domanda che avevano fatto rispetto alla richiesta di asilo. E quindi, insomma, ti stimolerei un po' su questo qui, perché mi sembra che poi possa chiudere un po' il cerchio del discorso. Sì, anzi, tanto più che quello che dici è vero, in quanto uno dei motivi per cui da Minniti, ma anche in precedenza, si è chiesta la chiusura di questi grandi centri è stato che la forza numerica, il numero di persone nel momento in cui protestava veramente diventava difficile da contrastare per le forze dell'ordine, tanto è vero che nei CARA è presente in tutti i CARA anche un distaccamento dell'esercito, non solo quindi polizia e carabinieri, ma anche dell'esercito. Nelle immagini di questi giorni qualcuno si è scandalizzato anche perché poi è intervenuto l'esercito. Sì, l'esercito ci sta sempre nei CARA, come sta anche di presidio alcune altre strutture come gli hotspot o i CPR. E l'esercito anche in passato è intervenuto in moltissime delle rivolte, tra le più grandi, ricordiamo quelle che sono avvenute a Mineo, a Borgo Mezzanone, a Crotone, sono state veramente decine, e proprio queste rivolte che hanno portato anche a blocchi stradali, a Crotone mi ricordo bloccarono addirittura l'aeroporto, impedirono i voli, hanno portato le autorità a valutare che fossero più controllabili le persone migranti in piccoli centri piuttosto che in questi grandi assembramenti di migliaia di persone. Per tornare a Castelnuovo, ci sono state da anni rivolte, dal 2014, ci sono anche già nel 2014 delle forti proteste, delle manifestazioni che arrivano pure a Roma davanti alla prefettura, contro dei trasferimenti coattivi ai quali si apponevano le persone soggette a questi trasferimenti. Ci sono state delle rivolte più volte nel 2016, nel luglio del 2016, nel novembre del 2016 e nel maggio del 2016. Ci sono state tra l'altro rivolte che hanno portato a blocchi stradali, a fermi, denunce, trasferimenti punitivi delle persone ritenute responsabile o, diciamo, capopopolo di queste rivolte. E anche in questo caso le persone non solo si lamentavano delle condizioni di vita, dei soprusi che subivano a causa dei gestori, in particolare dell'Axilium, ma richiedevano appunto anche i documenti che non ricevevano, una risposta alla domanda d'asilo, la possibilità appunto di poter decidere il loro futuro, perché e nella costrizione di dover rimanere in un posto che come Castelnuovo, che uno magari ovviamente in piccolo si è riuscito a costruire un minimo di rete di relazioni, però magari con i documenti avrebbe scelto sicuramente di trasferirsi liberamente altrove, non dover accettare o di rimanere in quel CARA o di essere trasferito in un posto che nemmeno conosce a centinaia di chilometri di distanza. Assolutamente, quindi insomma questo tanto per suffragare un po' quello che stiamo dicendo, che comunque appunto in questi centri insomma sono sin dal loro inizio problematici, tant'è che appunto le proteste e le rivolte sono state tante. Mi viene in mente anche che ci sono state anche delle condanne per devastazione e saccheggio, se non vado errato, per delle proteste che sono avvenute proprio in un CARA, quindi insomma a Borgo Mezzanone, esattamente, esattamente. Quindi insomma anche questo noi abbiamo provato a documentarlo in vari momenti, però appunto ecco, ci tenevamo un po' a rifare il quadro della situazione, perché poi sembra che è molto spiacevole dal nostro punto di vista utilizzare operazioni del genere per poi fare una sorta di contropropaganda politica, che poi è quello che sta avvenendo, perché sentire francamente i parlamentari del PD, esponenti insomma della sinistra istituzionale, esporsi in questo modo, dire queste modalità ricordano i lager nazisti, effettivamente è vero, però è anche vero che i lager nazisti cioè sono proprio questi posti che ricordano in maniera diciamo molto precisa i lager nazisti, quindi insomma questo era tanto un po' per fare chiarezza. Senti, non so se hai ancora qualcosa da aggiungere su questo. No, mi sembra che abbiamo un po' trattato bene. L'argomento abbastanza approfonditamente. Perfetto. Allora noi come al solito ti ringraziamo per la partecipazione e speriamo di vederci presto. A presto, grazie a voi. Ciao caro, ciao. Ciao. E allora, quello che abbiamo appena ascoltato era un collegamento con un compagno con cui abbiamo provato a rifare di nuovo una ricognizione su quello che è il mondo dell'accoglienza, con un focus specifico sui CARA, proprio perché insomma ci tenevamo un po' a rimettere un po' le cose, a rifare un po' di ragionamenti su questo tema, visto quello che è avvenuto proprio in questi giorni. Noi adesso ci prendiamo una breve pausa musicale e poi continuiamo con la trasmissione. Restate all'ascolto.